America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. My response for doing what we've done over the last year and a half was real simple. My sons Matt and Alex, I wanted to make sure they inherited a better state than the one we did. That's why I took the action I took, and that's why I'll continue to move in a way that moves our state forward and not backwards. Una giornata di attesa, quella di oggi, sotto ogni punto di vista, una giornata di attesa in borsa. Ieri la borsa è rimasta praticamente stabile, una variazione dello 0,14%. Si attendono gli sviluppi in Europa, preoccupazioni per la ripresa, attesa anche sul fronte politico, ma un'attesa relativa, perché sappiamo che Mitt Romney ha già vinto la nomination formalmente la settimana scorsa in Texas, superando la barriera dei 1144 delegati. E dunque l'attesa dov'è? L'attesa è per le elezioni nel Wisconsin. La voce che avete ascoltato è quella del governatore Scott Walker, 44 anni, figlio di un pastore protestante, uno dei personaggi più controversi sullo scenario politico americano, al punto che il Wisconsin è riuscito a organizzare una raccolta di firme per poter rimettere in discussione il suo ruolo di governatore e la sua vittoria di circa un anno fa. Cosa ha combinato il signor Walker? Beh, non appena si è insediato nella poltrona di governatore, ha di fatto abolito con un colpo di mano nel Parlamento locale il diritto sindacale dei dipendenti statali ad organizzarsi, diciamo, in un negoziato collettivo di lavoro. Ne ha licenziati una gran quantità in tronco, ha detto che questo era indispensabile per rimettere a posto le casse dello Stato. Potete immaginare che cosa è successo a livello nazionale. Governatori come Chris Christie del New Jersey sono schierati subito al suo fianco. Il presidente Barack Obama in persona è intervenuto attaccando la decisione di Walker, e i dipendenti statali sono organizzati, hanno fatto una raccolta di firme, oltre 900.000 firme, 300.000 più del necessario, per organizzare una nuova elezione. Il concorrente di Scott Walker si chiama Tom Barrett, ex sindaco di Milwaukee, e devo dire l'attenzione di oggi sul piano politico è quasi esclusivamente sull'esito di questo voto, perché il Wisconsin ha 10 voti elettorali, perché il ruolo chiave del sindacato in America viene messo in discussione, perché un presidente come Barack Obama, schierato al fianco dei sindacati e schierato al fianco del concorrente di Scott Walker, ovviamente si gioca una importante carta politica. Dunque, in attesa di questi risultati, oggi vorrei parlarvi dell'impatto che lo scandalo in Vaticano ha avuto e sta avendo sulla Chiesa cattolica americana. I cattolici in America, perché dunque lo scandalo del Vaticano potrebbe risultare problematico per le relazioni tra la Chiesa cattolica americana e il Vaticano? Perché innanzitutto i cattolici americani sono molto importanti, non soltanto economicamente, ma anche come dimensione. La religione cattolica è la più importante delle religioni americane, come sappiamo ce ne sono molte, ci sono 68,5 milioni di cattolici, uno studio ancora più recente li stima in 77 milioni, rappresentano circa il 22% della popolazione e la denominazione religiosa più importante. La denominazione cristiana è la più importante, circa il 70%, però all'interno del cristianesimo ci sono poi gli evangelici, ci sono gli anglicani, ci sono i mormoni, insomma ci sono le varie denominazioni. Ecco, la cattolica è la più importante. E c'è sempre stato un piccolo conflitto tra la Chiesa cattolica americana e tra il Vaticano, su questioni anche di dottrina. Ad esempio, qual è il valore del capitalismo? L'America ha tradizioni in materia di capitalismo che sono naturalmente diverse da quelle che non tanto tempo fa ha enunciato e confermato lo stesso Papa. Ci fu un intervento poi di Papa Wojtyla, lungo il suo pontificato cercò di eliminare alcune di queste differenze, nominando una serie di cardinali molto molto molto conservatori, però c'è sempre un atteggiamento piuttosto diverso. Il Vaticano si trova sempre un po' più indietro rispetto alla base cattolica americana, che nel caso dei preti pedofili chiese giustizia, e poi ci fu naturalmente un cambiamento di politica. Ma la questione direi è più profonda, perché la Chiesa cattolica americana ha una base di ferventi seguaci che guarda in avanti verso cambiamenti, ad esempio l'eliminazione del celibato, ad esempio le donne autorizzate a celebrare la messa. I due casi sono i seguenti. E uno dei problemi, la Leadership Conference of Women Religious, che è un'organizzazione che raccoglie 57.000 suore in America, cioè l'80% della popolazione di suore in America, e questa organizzazione è stata condannata dal Vaticano con l'accusa di sostenere temi di femminismo radicale. La vicenda risale allo scorso aprile, ci fu un'indagine condotta dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, guidata dal cardinale americano William Levada, e la Santa Sede aveva chiesto una riforma di questa organizzazione, la cosiddetta LCWR, che era stata fondata nel 1956, tra l'altro su richiesta del Vaticano, e questa organizzazione così si agitava parecchio, esprimeva pareri e giudizi sul futuro della Chiesa cattolica che non coincidevano con la visione del Vaticano. L'organizzazione era stata accusata di avere seri problemi dottrinali e avrebbe promosso un femminismo radicale incompatibile con il credo cattolico, e nel corso degli ultimi anni questa associazione in effetti aveva assunto posizioni controverse, come vi dicevo, in materia di sessualità, aborto, eutanasia, in contrasto con le indicazioni del Vaticano. L'altra polemica è molto più recente, riguarda ieri, ed è relativa al libro di Margaret Farley, un libro che si intitola, forse in modo provocatorio, Just Love, soltanto amore, A Framework for Christian Sexual Ethics, quindi solo amore, un quadro per l'etica sessuale, in cui suor Margaret Farley è molto aperta nei confronti della masturbazione, dell'omosessualità, e dunque un gruppo nominato direttamente qui negli Stati Uniti ha preso le distanze e condannato il libro della Farley come contrario alla dottrina cattolica e anzi negativo per lo sviluppo della dottrina cattolica. Polemiche, dunque, la storia non si fermerà qua. Finora non ci sono state delle rotture plateali, ma queste rotture plateali, alcuni dicono, sono così sotto la cenere. Non so se questo scandalo in Vaticano contribuirà a riportarla alla luce, non credo che ci sarà poi una polemica più forte. In genere, in situazioni di questo genere, si tende a riunirsi piuttosto che a separarsi, ma certamente riporterà vivacità a questo dibattito di differenza fra una Chiesa Vaticana che viene accusata, come dice l'articolo del New York Times, ad essere molto italiana, non per il merito ma per l'intrigo, e una Chiesa Cattolica invece più vicina ai valori calvinisti della trasparenza, del merito, come vorrebbero alcuni dei cattolici americani. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ne avevamo già parlato qualche settimana fa, quando Adam Jones, uno dei membri della band, è scomparso prematuramente, ma i Beastie Boys tornano a far parlare di sé, perché un gruppo newyorkese da poco ha lanciato una petizione su Facebook per nominare un parco cittadino nel cuore di Brooklyn proprio in onore degli Jones. Dei Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn. Kicking it live! New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!